sì. Ci siete al lavoro? Che dito gufo! Che gufo! 1, 2, 3, prova. Prova. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, Cicu. Chiamai! Che faccenici? Parando c'è, Giomari. E tu mangiando stai? Parando c'ho, Giomari, arando. Fai bene. Sì che abbiamo lo chef malato, mi. Cos'è lo? Che abbiamo lo chef malato. Oh, bobo. Certo. E cosa c'ha, lo ti ho rovesciato? Ha detto che sei ingudito, 10 supposte, boh. Chissà cos'è che ha mangiato e l'ha fatto male, gatta. Dile che si bocca il belamuglio. Gli ho mandato un messaggio ad accendere, ma ha detto no, mi sento male. E allora sento male, non accende quello lì. Caspita, oi. Beh. Ma tu l'hai mandato quella foto lì? Quale foto? Per l'alimentatore. A chi l'ho mandata? No, pensavo che l'avessi mandato tu, no? Ma a chi? Ma l'ho mandato una foto dell'alimentatore. Precisa a quello che ho io. Però non so chi è che l'ha mandata. Ah boh, non lo so. Tu me ne hai mandato due. Guardi, stamattina stavo controllando per vedere il prezzo, quanto costava. Chi non si ha portato quello, si ha portato via quello che c'avevo io, era nuovo, capito? Mai usato, capito? Ah, chi lo stava preso? Ehi, è venuto mi poc'anzi e si ha portato via, era nuovo, non l'ho mai attaccato io, mai. L'ho tolto dalla scatola e buh. Certo, però non l'ho mai provato, non sapevo niente l'ammario, vivi. Tanto non facevo niente, c'era né alimentatori, né voglia. Per cui... E poi da 50 ampere, capito? Già l'ho visto. Già l'ho visto, va bene, dai. Per attaccarci i baracchini, c'è per i maiali anche. Ma quello... Quello sopporta anche roba grossa anche, capito? Quello lo sopporta anche roba grossa perché è fatta apposta, 50 ampere, certo, è un griglia. E ne può attaccare baracchini, ne può attaccare 7-8, ne può attaccare e le mantiene. Stiamo parlando di un 50 ampere, non stiamo parlando di un 10 ampere. Infatti. Sì, va bene. Beh, lo si è presentato lì, il dottore, le Bacchisi o no? No, tu lo sai che io di solito mando un messaggio a Graziano e poi... No, nessuno. Sono arrivati in merenda. Già sono qua, mi aspetto 5 minuti, Lu, che è venuta gente. Sì, fai tranquillo. Dottore! Giomari! E chi è? Miguel, sono sempre me, piazzato, eh. L'ho piazzato e già alimentando. Oti! Eia! Ma c'è? Ma non mi senti? E adesso è un po' distante, c'è la televisione un po' alta, non l'ho capito bene. Pensavo che non mi ascoltavi, eh. L'ho visto già. L'ho già piazzato, l'ho già collegato tutto quanto. Sono entrato 20 minuti fa, al tempo di piazzarlo. Ma va bene, là, cazzo, per porca, adesso muori, vai. Io ne ho un altro della Teleco, però quello ce l'ho, è una 15 o 20 anni ce l'ho. Però di quelli grandi, non è swing come quello lì, quelli sono migliori, sono piccolini e sono più perfetti. Da Ah, va bene, già va bene, no, va bene, ma poi ho dovuto togliere l'altro che era troppo sovralimentato, capito? Perché c'era tutto quanto da cattolino, va bene. Sono sei radio tutti quanti assieme. Ah, va bene, cazzo. Va bene, sì. Va bene, ecco, sicché non è c'hai guadagnato, comunque, ma mi sta bene così, a me tranquillo, capito? Comunque buono e nuovo e per cui sei tranquillo, capito? Ehi, AK, va bene, ci sentiamo dopo, dai. Ciao Giovanni, ciao, ci sentiamo dopo, grazie. D'accordo, sì, ciao, ci sentiamo. Saluta quella persona se c'è. D'accordo Giovanni, a più tardi, che faccio una base un attimino. Ehi, ciao, ti ciao. Tore, Bacchisio. E lui? E beh lui. Che? Finito di mangiare, hai? No, mica stavo mangiando, ho fatto merenda poco fa, Gio Maria, mangiare se ne ho voglia dopo. Dopo verso le 8 o qualcosa. Il solito, che ora serate? 8, 10, dipende. Vai, vai. Allora, chef è malato, no? Bubu. Allora, male sta, male. Proprio. Mi ha dato la priallo. Sì, vabbè, già c'è Paoletta, lo consola, dai. È vero, beh. Ma la sentita, le torre del Bacchisio. Né ieri né oggi. Ah, Bacchisio, torre sì ieri. Bacchisio no, boh. Sì, magari è impegnato. Beh, senz'altro è impegnato, sì, se lo sarebbe entrato. Bene, Eva. Eva, poco fa è entrato il Tino. Ha chiesto un controllo e se n'è andato. Sì, già mi ho sentito. Ah, ha ascoltato, stato? Sì, ero qua, stavo giocando col telefono. Ah. Il bello non si è sentito per niente. Chi se lo sa ancora Rocelli che ha più interrato? Oh, sei fuori ancora la doccia. Oh, ci sono, un attimino, sto facendo la bassa. Devo fare una chiamata in questo canale. Vai, chiama. Ciao, ve lo be. Gavino, Joker, ci sei? Basso, basso, ti sento, Gavino. Livello QRM, mi è caduta la linea comunque, stavo provando a chiamarti. Vabbè, ti sento livello QRM, dai. Se no, tanto non ti sentono gli altri. Ti richiamo, ti faccio una bassa. Ciao, continua Giovanni, ciao. Scusate, avevo una bassa, ci siete? Che lei? Eia, ti ascolto, Solo di radio, però riesci ad arrivare. Sì, ma sono qua, in radio sono. Vabbè, non c'è segnale, però di radio già ci sì. Chi è che voleva entrare avanti? Nessuno, vabbè. Sì, guardalo perché è interessante. Io ce l'ho già, anzi addirittura lo volevo comprare, però avevo già questo, averne due non ha senso, capito? Quello se non sbaglio spara anche 50 watt, non è che fa bassa potenza, media e alta, farà media potenza sarà 25 e poi fa 50 watt. Sì, aveva anche avvicinato, va bene, penso nel mobile quello che può lasciare un'antenna abbastanza forte. Guarda, così sono a bassa potenza, mi senti? Così invece la media e così sono tutti quanti. Va bene. No, come quello che ti ho detto a te. Ma non ci circa così, dai. Solo che cambia marca. Ma io credo che si metti anche una veicolare, va bene per me. E allora, basta di fare massa bene. Va bene, capirai, sentiamo, ciao, stai bene, buonanotte.